L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Partiamo subito con il nostro racconto dell'ultima settimana, da sabato scorso 17 gennaio fino a quello che è successo ieri. Ormai la formula è consolidata e la conoscete, 7 notizie principali per 7 giorni, da cui partire poi con i servizi, le interviste e i commenti che riascolterete, che sono già andati in onda, come sempre, nei GR di Radio 24. Sabato. Partiamo da Gaza perché dopo settimane di attacchi e contrattacchi di vittime militari, poche per la verità, e di civili, purtroppo molte di più, Israele decide la tregua unilaterale. Sentiamo la cronaca delle prime ore successive alla svolta con l'inviato in Medio Oriente, Ugo Tramballi. C'è un silenzio quasi reale a Gaza. Dopo 3 settimane di combattimenti non si spara più, ma è ancora troppo presto per parlare di tregua. Il cessate il fuoco unilaterale proclamato da Israele è scattato solo alle 2 di questa notte. Ieri sera, dopo che il premier israeliano Ehud Olmert lo aveva annunciato, in pochi minuti Hamas aveva lanciato 6 missili. Gli israeliani erano stati chiari: se Hamas continua a sparare, noi risponderemo al fuoco e riprenderemo la nostra offensiva. Ma dalle 2 è calato il silenzio. Per dare una forza politica a questa tregua ancora debole sul campo, oggi a Sharm el-Sheikh in Egitto il presidente Mubarak ha convocato un vertice d'urgenza. Arabi moderati ed europei insieme perché il cessate il fuoco si trasformi in pace duratura. Lo stesso Tramballi lo ha appena precisato nel servizio che abbiamo risentito. Dopo la decisione di Israele, l'attenzione si sposta in Egitto ed esattamente a Sharm el-Sheikh, la località nota soprattutto per le spiagge e per i suoi villaggi turistici, che però Mubarak questa volta ha scelto come luogo di incontro domenica della diplomazia mondiale per discutere proprio della situazione di Gaza. Ma anche tra israeliani e palestinesi quella di domenica è una giornata importante e ricca di passi avanti. Sentiamo allora Raffaella Calandra e poi Alessandra Tedesco. I primi carri armati con la stella di David hanno riattraversato i confini mentre Hamas proclamava un suo armistizio e i leader europei invocavano una pace duratura. Dopo il cessate il fuoco, Israele inizia il ritiro delle truppe, graduale, precisano, ma la tregua che al mattino, ieri, era sembrata già vacillare sotto il rombo degli ultimi Qassam palestinesi, a sera appare più solida dopo l'annuncio di Hamas di uno stop ai razzi per 7 giorni, condizionato al ritiro dell'esercito. Vogliamo andare via il prima possibile, rassicura il premier israeliano Ehud Olmert, che definisce una priorità la ripresa dei negoziati, ma il leader di Hamas, Haniyeh, risponde proclamando fallita l'operazione Piombo Fuso. Al precario embrione di tregua cerca di dare ossigeno la diplomazia internazionale, prima nel vertice di Sharm el-Sheikh, poi a Gerusalemme. Il cessate il fuoco è solo il primo passo, avverte il presidente francese Sarkozy, sollecitando il ritiro da Gaza, e il britannico Gordon Brown chiede ad Israele anche l'apertura dei valichi. Arrivato a sorpresa il premier palestinese Abu Mazen annuisce, mentre oltre al sostegno per la ricostruzione i leader europei in una lettera a Mubarak annunciata dalla cancelliera Merkel offrono forze per un pattugliamento dei confini che ostacoli il riarmo dei terroristi. Ma qui la questione si complica perché l'Egitto non vuole ispettori e il tallone d'Achille restano il deserto e i tunnel. Prima Sharm el-Sheikh per il vertice, poi in serata a Gerusalemme per la cena con il premier israeliano Olmert. Silvio Berlusconi ha assicurato che l'Italia farà la sua parte nel rilanciare il processo di pace in Medio Oriente. L'Italia è, insieme agli altri, impegnata in tutte le attività che potranno portare a un miglioramento dell'attuale situazione. In concreto, da oggi partirà una missione italiana per portare medicinali e viveri nei territori palestinesi, ma il nostro paese potrà contribuire al mantenimento della tregua, soprattutto con l'invio dei carabinieri, qualora dovesse essere creata una forza internazionale per il controllo dei valichi fra Egitto e Striscia di Gaza. Questa dunque è l'offerta di Berlusconi, che ha anche ribadito la disponibilità ad ospitare eventuali negoziati di pace ad Erice a spese dell'Italia. Il Presidente del Consiglio ha inoltre ricordato che il nostro paese sostiene un grande piano Marshall per la Palestina nel momento in cui ci sarà la soluzione dei due stati. Martedì, mentre il ritiro dei soldati israeliani da Gaza procede, il segretario dell'ONU Ban Ki-moon si trova proprio nella striscia. Va a visitare sia la parte palestinese sotto le macerie, sia Asredot, dove gli israeliani vivono costantemente sotto la minaccia dei missili Qassam. Sempre martedì arrivano a Gaza i primi aiuti italiani. Invece nella notte giungono in Italia 10 bambini palestinesi malati cronici, che saranno poi curati in diversi ospedali della Toscana. Cristina Balotelli ha intervistato su questo tema il generale Pier Valerio Manfroni, responsabile sanitario del centro operativo Interforze, che accoglie proprio i bambini all'aeroporto militare di Pisa. La scelta è stata fatta per bambini che hanno patologie estremamente complesse, quindi dobbiamo pensare congenite o acquisite, quindi malattie croniche, non derivanti dagli ultimi eventi che si sono verificati in quell'area. Sono bambini con gravi malformazioni a livello cardiaco o ad altri organi, o anche con patologie neoplastiche, che immagino impegnassero moltissimo i sanitari locali e che quindi, sottratti al loro interesse diretto, consentono loro di potersi dedicare con molto maggior impegno ai bambini feriti, che però magari richiedono un impegno relativo, una frattura, una ferita, riescono a trattarla molto meglio di un bambino oncologico e di uno con una grave malformazione, che richiedono un impegno di equip complete. Nei giorni centrali di questa settimana il ministro degli esteri italiano Frattini è in visita in Medio Oriente. Prima è al confine tra Israele e Gaza, simbolicamente porta gli aiuti umanitari italiani nella zona, mentre mercoledì è in Egitto. Ecco la cronaca dal Cairo di Carlo Marroni. Una conferenza internazionale per la riconciliazione e la ricostruzione della Palestina. L'Egitto mette sul piatto della diplomazia il suo peso di artefice della tregua di Gaza. Il presidente egiziano Mubarak ha annunciato al ministro degli esteri italiano Franco Frattini l'iniziativa che coinvolgerà l'Italia come presidente di turno del G8, insieme alla Banca Mondiale, all'ONU e ad altri soggetti e ad altri paesi, probabilmente anche gli Stati Uniti e la Russia. La condizione è che l'interlocutore sia l'autorità nazionale palestinese e non Hamas. E intanto prosegue il Cairo la visita del ministro degli esteri, che ha incontrato il ministro della sicurezza Suleiman, il vero artefice della tregua. L'Italia conferma l'ipotesi di invio di carabinieri per il controllo dei valichi di Gaza e anche in prospettiva l'invio di un contingente marittimo per il controllo delle acque internazionali. Sentiamo il ministro Frattini. Abbiamo confermato il pieno sostegno dell'Italia al piano egiziano, che passa certamente per interventi di sicurezza ma anche per un'iniziativa per la ricostruzione. Fino a questo momento nel nostro racconto su Gaza ci siamo concentrati sui due attori principali in guerra perenne tra loro, israeliani da una parte e palestinesi dall'altra. Sull'Egitto, senza il quale ormai mi sembra chiaro che è inevitabile, è impossibile una pace, e sull'impegno del nostro paese. Ma non c'è dubbio che una soluzione del conflitto prevede l'intervento importante, significativo, massiccio degli Stati Uniti. Obama si è mosso subito in questa direzione, ma ne parleremo più tardi quando dedicheremo naturalmente una parte del programma proprio al suo giuramento. E poi c'è l'Iran, sempre protagonista sulla scena, come ci ricorda Adib Fateh Ali in questo servizio. Navi da guerra statunitensi stanno cercando nel Golfo di Aden un mercantile iraniano con un carico di 60 tonnellate di armi, tra le quali missili con una gettata di 75 chilometri, destinata a Hamas. Ne dà notizia il sito di intelligence israeliano Debka, secondo cui la nave partita dal porto di Bandar Abbas avrebbe cambiato nome e bandiera. Il comandante avrebbe l'ordine di scaricare le armi in un sito sulle coste del Sinai in Egitto, per consegnarlo a beduini del deserto che dovrebbero poi trasportarlo gradualmente e clandestinamente nella striscia di Gaza. Venerdì scorso il ministro degli esteri israeliano Tzipi Livni era volato a Bruxelles per chiedere all'Unione Europea di sottoscrivere un'intesa appena raggiunta con gli USA, intesa che garantisce l'impegno USA di impedire il contrabbando di armi verso Gaza. L'ottavo giorno. Domenica. Come promesso prima della pausa, apriamo una ricca e secondo me gustosa pagina di sport. Se parliamo in particolare di calcio, il fulcro della settimana è attorno a Milano, sponda Milan ma anche sponda Inter. Da un lato il club rossonero deve gestire e risolvere la faraonica trattativa avviata dal Manchester City per Kakà, oltre 100 milioni per acquistare il brasiliano, a cui peraltro vengono promessi 15 milioni di euro l'anno, una cifra veramente stratosferica. Alla fine il Milan, ma forse ancora di più il giocatore, arrivano alla decisione forse più inaspettata. Sentite Dario Ricci. Non si vede Kakà, non si vede Kakà. Alla fine vince il cuore, vince il popolo rossonero. Kakà non si vende, Kakà resta al Milan. Niente Manchester City, addio ai 130 milioni di euro con cui gli inglesi, griffati dallo sceicco Mansur, avrebbero riempito i forzieri del club di Via Turati. L'annuncio lo dà lo stesso presidente rossonero, Silvio Berlusconi. Ha rinunciato alle offerte del Manchester, dicendo proprio che i soldi non sono tutto e che lui privilegiava la bandiera, Milan, l'amicizia dei suoi compagni e l'affetto che gli è stato dimostrato sempre, ma soprattutto negli ultimi giorni, da tutti i tifosi rossoneri. Kakà, dopo una giornata di incontri e proteste, dice no ai 15 milioni annui promessi dal City, ma il vero vincitore alla fine è proprio Berlusconi. La sola idea di cedere il brasiliano, sostenuta da altri ad Arcore e dintorni, ne aveva intaccato, sondaggi alla mano, la popolarità tra tifosi ed elettori. Alla fine però, altro che Al-Mansur Bin Zayed, l'ennesimo colpo di teatro fa del presidentissimo il vero sceicco, che racconta fino a notte fonda la favola che al cuor non si comanda. Insomma, l'avete capito, alla fine Kakà resta al Milan, non va in Inghilterra, ma già si comincia a parlare di un suo possibile passaggio al Real Madrid. Altro clima invece martedì a Napoli per una partita di tutt'altro tipo, quella in tribunale per il processo di Calciopoli. Enzo Danna. La prima udienza del processo sullo scandalo Calciopoli in programma questa mattina a Napoli si è aperta ed è stata subito rinviata al 24 marzo. La nona sezione penale ha dovuto fare i conti con tre difetti di notifica. Alla sbarra 24 imputati, tra cui l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, personaggio chiave della vicenda che oggi non era in aula. Moggi è stato rinviato a giudizio per associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva insieme ad altre 12 persone, tra cui l'ex arbitro De Santis e gli ex designatori Bergamo e Pairetto. Per altri 11 imputati che hanno scelto il rito abbreviato, il procedimento è già in corso e riprenderà il prossimo 9 febbraio. L'impianto accusatorio, basato su migliaia di intercettazioni, ipotizza una serie di combine e favori arbitrali che avrebbero alterato il regolare svolgimento dei campionati a vantaggio della Juventus e di altre squadre legate a Moggi. L'ex dirigente bianconero intende chiamare a deporre quasi 500 testimoni, tra cui anche il premier Berlusconi. L'8 gennaio scorso Luciano Moggi e il figlio Alessandro sono stati condannati rispettivamente ad 1 anno e 6 mesi e ad 1 anno e 2 mesi pena sospesa nel processo GEA. Lasciamo un attimo da parte il calcio, ci arriviamo ancora tra pochissimo. Parliamo adesso di nuoto, perché mercoledì una delle nuotatrici più belle e discusse degli ultimi anni, rivale storica della nostra Federica Pellegrini in piscina ma anche nella scelta del fidanzato, annuncia il ritiro almeno per il 2009. Dario Ceccarelli. Mon objectif c'est pas de battre les italiennes mais d'arriver première. Bei tempi quando l'Orma Nadu lanciava stilettate alla concorrenza, unghiate da far male, occhi arrossati e non solo per il cloro. La francese era prima in tutto, in vasca, 3 medaglie olimpiche, 6 mondiali e in pettegolezzi con la sua sfavillante storia da copertina con Luca Marin. Poi le cose cominciano ad andare male, Federica Pellegrini, la sua antica rivale, le sfila via tutto, prima il fidanzato e poi i risultati. Da allora per la star francese comincia la picchiata verso il fondo, il ritorno in Francia, le sconfitte di Pechino, il gossip velenoso della stampa e un calvario non solo sentimentale, mal di testa, mal di schiena, la spalla che cigola, la fatica della routine. Ore e ore in acqua, i rumori soffusi, la solitudine dell'allenamento e un altro fidanzato che non va. E soprattutto quella domanda, perché non sei più la prima? Così, per cambiare corsi alla sua vita, la Manadou ha deciso di mollare, almeno per 1 anno. Ha raggiunto uno stato di saturazione che la priva del piacere e della voglia di nuotare, ha spiegato il suo avvocato. Già, la voglia di nuotare non c'è più, se l'avesse ancora sarebbe davvero d'acciaio, invece è solo una ragazza di 23 anni. Visto che stiamo parlando di sport, dobbiamo purtroppo ricordare il terribile incidente di giovedì dello sciatore svizzero Daniel Albrecht, che è finito in coma dopo una terribile caduta nella prova della discesa libera di Kitzbühel. Ma torniamo invece al calcio, siamo partiti dal Milan e da Kakà, ma anche la settimana dell'Inter è stata piena di buche e di scossoni. Domenica la sconfitta durissima 3-1 sul campo dell'Atalanta, poi la riscossa contro la Roma in Coppa Italia dopo una bella partita per la verità di entrambe le squadre, anche se poi il gol vittoria era viziato da un fuorigioco. E poi c'è Mourinho, che spesso sembra giocare un campionato a sé stante. Ancora una volta il tecnico portoghese non trattiene la lingua e lancia parole di fuoco, rivolte peraltro contro la sua stessa squadra, contro l'Inter. Un servizio sul tema di Dario Ricci. Avrebbe scelto una terapia d'urto José Mourinho per far rialzare l'Inter dopo il KO di Bergamo, poi riscattato col successo in Coppa Italia sulla Roma. Il primo scudetto ve lo hanno dato in segreteria, il secondo lo avete vinto perché non c'era nessuno, il terzo all'ultimo minuto. Avrebbe detto Mourinho ai giocatori nel faccia a faccia alla Pinetina dopo la batosta contro l'Atalanta, secondo quanto rivelato dal quotidiano La Repubblica. Ovvio che lo Special One le volesse provare proprio tutte per scuotere i suoi, ma farlo dissacrando i controversi successi post Calciopoli non deve aver fatto piacere ai giocatori e al presidente Moratti. Da qui il gelo di questi giorni fra tecnico e vertici societari, che si somma alle tensioni causate dalla campagna cessioni, con molti big dai contratti pesanti, Vieira, Crespo, Materazzi, Burdisso, dati in partenza. Senza contare poi che le parole di Mourinho hanno diviso anche i tifosi, scatenati su forum e blog. L'unico rimedio? Il solito, vincere. La Sampdoria, ospita a San Siro nel posticipo di domenica, è avvisata. Lunedì. È il giorno del primo sciopero della nuova Alitalia, ci sono 4 ore di sciopero appunto proclamate dal sindacato SDL. Poi anche il giorno in cui invece Russia e Ucraina trovano l'accordo sul gas dopo settimane di tensione, ma a fare notizia soprattutto in campo economico è la Fiat. Il servizio è di Andrea Malanna. Fiat sigla un'intesa con Chrysler e ne cerca un'altra con la Peugeot. Di fronte alla crisi del mercato e al calo di redditività, Torino rilancia con un accordo, quello che potrebbe essere annunciato già oggi con Chrysler, che costa poco e in cambio di motori e piattaforme darà alla Fiat una quota fino al 35% nell'azienda americana. Un'alleanza che cambia poco nel breve periodo sia per il lingotto che per le finanze dissestate dell'azienda di Detroit, ancora in attesa della seconda iniezione di fondi da parte del governo americano. Per la Fiat, che subentrerà nell'azionariato alla Daimler, è una scommessa di lungo periodo nella ripresa di Chrysler. Quanto all'Europa, l'eventuale intesa della Fiat con la Peugeot dovrebbe comunque superare lo scoglio della politica. Le sinergie verrebbero infatti soprattutto da tagli ai costi e il presidente francese Sarkozy ha promesso aiuti a Peugeot e Renault purché i costruttori non taglino posti di lavoro in Francia. In contemporanea alle nuove mosse sorprendenti della Fiat giunge implacabile, sempre lunedì, l'allarme dell'Unione Europea sui conti. Sentiamo i dettagli con Valentina Furlanetto e poi la reazione della politica italiana con Vincenzo Miglietta. Se l'Europa fosse un malato e la Commissione Europea un termometro, la febbre sarebbe alta. Bruxelles ha rivisto drasticamente al ribasso le precedenti stime di crescita dell'economia. Un calo del prodotto interno lordo dell'1,9% quest'anno e una lieve ripresa nel 2010 allo 0,3%. Fra i vari malati in corsia c'è anche l'Italia. Il prodotto interno lordo italiano dovrebbe subire quest'anno un calo del 2% e dello 0,2% il prossimo. Il deficit, vale a dire la spesa pubblica non coperta dalle entrate, salirà, sforando il parametro del 3% del PIL, al 3,8% nel 2009 e al 3,7% nel 2010. Le cure somministrate però vanno bene, dice il commissario europeo agli affari economici e monetari Joachim Almunia. I think the measures adopted are adequate. I think it's still too soon. Nelle misure anticrisi finora adottate dal governo italiano, dice Almunia, c'è la giusta combinazione fra gli stimoli fiscali necessari e la dovuta prudenza. Ma il malato resta grave, sale anche la disoccupazione e pessime notizie sul fronte debito pubblico. Nel 2009 si tornerà al 109,3%, nel 2010 al 110,3%. Mostra tranquillità il governo di fronte alle stime sul prodotto interno lordo. Un conto è avere l'obbligo di fare previsioni, un altro è crederci, commenta il ministro dell'economia Tremonti, per il quale oggi più che mai i dati sulla crescita sono congetture, ipotesi, terra incognita. La situazione, aggiunge il presidente del Consiglio Berlusconi, non è così drammatica come tutti vogliono pensare. Perché in effetti questo meno 2% che anche l'Europa ci dice che sarà il prodotto nostro nel 2009, ma con una ripresa verso la fine del 2009 e una forte ripresa nel 2010, significa che torniamo indietro di 2 anni e non mi sembra che 2 anni fa noi stessimo poi così male. Parole queste di Berlusconi che dal Partito Democratico Veltroni definisce sorprendenti. Il Presidente del Consiglio che dice che non è un problema se cala il 2% del prodotto interno lordo, non sa che quel 2% in meno sono posti di lavoro, sono piccole e medie aziende che chiudono. Dalla crisi si può uscire, commenta il presidente di Confindustria Marcegaglia, che chiede però al governo interventi rapidi. Servono una serie di iniziative chiare e serve anche più stanziamento di fondi. Per CGIL, CISL e UIL la priorità sono gli ammortizzatori sociali. Adesso facciamo una breve escursione nelle aule di tribunale. Dovete tornare con la mente all'estate del 2005, quando impazzavano, ricordate, i furbetti del quartierino, Fiorani, Ricucci, Emilio Gnutti. C'era poi una lunga serie di scalate bancarie all'Anton Veneta, alla Banca Nazionale del Lavoro. C'era poi la scalata all'RCS. Tra i protagonisti figuravano anche Unipol e Giovanni Consorte. Mercoledì arriva una decisione importante della Cassazione. Raffaella Calandra. Giovanni Consorte mette a segno un'altra piccola rivincita dopo il dissequestro dei 50 milioni bloccati nelle indagini sulle scalate bancarie. Ora l'ex presidente di Unipol si vede annullare anche la condanna per insider trading insieme al suo braccio destro Ivano Sacchetti. La Cassazione ha stabilito infatti che non doveva essere la Procura di Milano ma Bologna ad indagare su quella compravendita nel 2002 di obbligazioni Unipol che la Consob giudicò sospetta. Viene per questo cancellata la condanna a 6 mesi e la multa di 100.000 euro stabilita in primo e secondo grado a Milano e gli atti passano a Bologna che potrà ricominciare da capo anche se la prescrizione scatta già tra un anno. Soddisfatto Consorte. Mi sembrava veramente un assurdo essere condannato per una azione di insider in cui chi aveva guadagnato i soldi era l'Unipol. Lei è fiducioso anche per l'inchiesta sulla tentata scalata alla BNL? Credo di aver dimostrato la nostra correttissima attività. Questa nostra pagina economica si è aperta con la Fiat e con le nozze con Chrysler. Dobbiamo insistere sulla casa torinese nella settimana peraltro in cui i 14.000 lavoratori di Mirafiori tornano in fabbrica dopo un mese, ma il 2 febbraio scatterà un'altra settimana di cassa integrazione. La Fiat infatti giovedì presenta i conti del 2008. Ancora un servizio che poi ha anche un'analisi approfondita di Andrea Malanna. Fiat azzera il dividendo e crolla in borsa a meno di 4 euro. Di fronte a quello che ha definito l'anno più difficile della nostra storia, che vedrà un calo del 20% della domanda su tutti i mercati, l'amministratore delegato Sergio Marchionne ha varato un piano di risparmi e ha tagliato le stime sui conti 2009, che vedranno un utile netto quasi azzerato. Molto dipenderà dal piano di aiuti al settore che verrà discusso la settimana prossima con il governo. Il mercato ha snobbato un bilancio Fiat 2008 non disprezzabile nonostante la forte frenata dell'ultimo trimestre e teme l'impennata dei debiti, saliti a quasi 6 miliardi di euro a fine anno. Troppo lontani nel tempo sono gli eventuali effetti positivi dell'alleanza con Chrysler. Oramai Fiat vale un terzo del valore del libro, ha detto Marchionne. Il 2009 è davvero iniziato come annus horribilis. L'ottavo giorno. Martedì. E veniamo al gran giorno di Obama e dell'America. Milioni di americani sono nelle fredde ma anche calorose strade di Washington per assistere al giuramento del 44esimo presidente degli Stati Uniti. Idealmente in realtà tutto il mondo, via internet o davanti alla televisione, assiste a questo grande evento. La cronaca di una giornata storica è di Sergio Nava e poi l'aspetto più mondano della festa tra balli e abiti firmati con Valentina Furlanetto. È stato il volano musicale di Aretha Franklin a introdurre lo storico giuramento e discorso di Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti. Nemmeno 20 minuti scritti a quattro mani col 27enne speechwriter Jon Favreau per lanciare un messaggio di rinnovamento all'America. We gather because we have chosen hope. Abbiamo scelto la speranza rispetto alla paura. Barack Obama ha abbracciato le sfide che attendono la sua presidenza. Lo ha fatto non prima di aver ringraziato il predecessore George Bush. Ringraziamento di cortesia, anche perché nei minuti successivi il neo presidente ha di fatto demolito le teorie che hanno guidato gli ultimi 8 anni. We are in the midst of crisis. Obama ha prima inquadrato lo stato di crisi in cui versano gli Stati Uniti per ricordare immediatamente dopo la grandezza dei padri fondatori. Idealmente ha collegato il loro viaggio a quello degli americani degli anni 2000, rinnovando l'invito a darsi da fare. We must pick ourselves up. Infrastrutture, investimenti nella digitale e nelle nuove tecnologie, formazione scolastica e sanità, energie pulite. In poche righe Obama ha riassunto le priorità del suo mandato. Il neopresidente resta convinto della bontà del libero mercato ma chiede maggiore controllo. In politica internazionale Obama ha le idee chiare. We are ready to lead once more. Siamo pronti a guidare ancora il mondo. Obama ha ricordato l'Iraq e l'Afghanistan tendendo la mano al mondo islamico senza però abbassare la guardia contro il terrorismo. Il messaggio finale, un messaggio di unità a un paese in crisi, è chiaro. What is required of us now is a new era of responsibility. Da noi ci si attende una nuova era di responsabilità. Dopo il pranzo al Congresso, Obama e la moglie Michelle, insieme alla coppia vicepresidenziale, hanno percorso Pennsylvania Avenue per la tradizionale parata di insediamento alla Casa Bianca. President Barack Obama. I nuovi vertici americani hanno camminato per un tratto, salutando la folla festante. And now I would like to dance with the First Lady of the United States, Michelle Obama. E alla fine Barack Obama e signora sono scesi in pista, Come un qualunque boy che accompagna la sua ragazza al ballo di fine anno, il neo presidente degli Stati Uniti, in ossequio a una tradizione stabilita da Truman nel 49, ha affrontato in serata ben 10 di queste feste, dal ballo dei reduci a quello dello Stato Maggiore. Si è conclusa così in pista da ballo la giornata più lunga, almeno finora, di Barack Obama. Ed è stato anche svelato, forse uno dei segreti meglio custoditi, dell'insediamento del nuovo presidente americano, il vestito della First Lady. Dopo l'abito giallo dello stilista cubano scelto per il giuramento, ha sfoggiato un abito bianco lungo di chiffon disegnato da un giovane stilista taiwanese che ora, c'è da scommetterci, avrà grande fortuna. La situazione che è chiamato a risolvere Obama, persino al netto dei poteri messianici che qualcuno gli attribuisce, è gravissima. Basta per tutti la gravissima crisi economica che affligge gli Stati Uniti. E poi c'è l'antico conflitto medio orientale. In molti sperano davvero che l'avvento di Barack Hussein Obama possa segnare una svolta in quella zona del mondo instabile e martoriata. Adib Fateh Ali ci racconta attraverso i giornali del giorno dopo come il mondo arabo ha salutato l'avvento di Obama. Il day after di Gaza e la riconciliazione araba siglata ieri nel summit del Kuwait non offuscano l'evento che forse più di ogni altro potrebbe cambiare il destino del Medio Oriente. La stampa araba commenta con grande ottimismo l'insediamento di Barack Obama, ma non dimentica la soddisfazione per la fine dell'epoca del suo predecessore. Finalmente oggi il mondo sarà senza Bush, titola Al-Quds Arabi. Che sia un viaggio senza ritorno, si augura il libanese Asafir. I grandi auspici per la nuova era spingono a Sheikh Lawsat a suggerire ad Obama di lasciar perdere la guerra al terrorismo e intavolare trattative con Hamas e con i Taliban afghani. E infine Asafir lo aspetta al varco. Fino a ieri eri un fenomeno, da oggi sei tu il potere. Proprio in direzione del Medio Oriente, ma anche della gestione di Guantanamo, si muovono i primi passi, i primi provvedimenti del presidente in carica. Ecco il quadro tracciato dal corrispondente da New York del Sole 24 Ore, Mario Platero, ieri mattina nel GR delle 7. Terrorismo, processo di pace, Medio Oriente in senso lato, questo il tema centrale della giornata di ieri di Barack Obama. Il presidente americano si è recato per la prima volta al Dipartimento di Stato, ha incontrato Hillary Clinton, hanno approfittato dell'occasione per nominare George Mitchell come inviato speciale per il Medio Oriente. George Mitchell, ricordiamolo, che si occupò del processo di pace per l'Irlanda del Nord, una nomina sorpresa visto che fino a qualche tempo fa si pensava che sarebbe stato nominato Dennis Ross. Altra nomina, quella di Holbrooke. Dick Holbrooke sarà l'inviato speciale di Hillary Clinton per l'Afghanistan e il Pakistan. Dopo una serie di benvenuti reciproci ha preso la parola al Dipartimento di Stato lo stesso presidente americano e ha chiarito che la strada per la pace resta quella dei due stati, uno stato palestinese, uno stato israeliano. Occorre muoversi in fretta e ha dato naturalmente piena fiducia a Mitchell che partirà quanto prima per rimettere in moto i meccanismi di pace. Il servizio di Platero ci ha spiegato i primi movimenti, le prime mosse di Obama in campo medio orientale. Però contemporaneamente arrivano segnali contrastanti dalle parti in causa. Per esempio ad Al Jazeera il portavoce di Hamas, Osama Hamdan, dice che quello di Obama è un inizio non promettente e che Obama fallirà clamorosamente, quindi non vede grosse differenze per il momento sostanziali tra Obama e Bush. Contemporaneamente una fonte vicina al primo ministro israeliano Olmert sostiene invece che Obama continuerà sulla scia di Bush a non parlare con Hamas. Di sicuro Obama non ha la bacchetta magica e per arrivare ad una soluzione avrà bisogno di tempo e di fatica. Intanto però tra i suoi primi atti da presidente c'è la firma giovedì dell'ordine che prevede la chiusura di Guantanamo, del carcere nell'isola di Cuba, entro il 2009. La CIA poi non potrà più usare metodi di interrogatorio che non sono previsti dal Pentagono e che vengono considerati tortura. Proprio sulle conseguenze giuridiche aperte dalla svolta su Guantanamo, a Radio 24 ha parlato Antonio Cassese, ex presidente del Tribunale Internazionale dell'Aia. L'intervista è di Roberta Pelegatta. Ci sono due problemi principali. Uno di ordine giuridico. Cosa fare per i detenuti che si intende processare? Cioè deferirli ai tribunali ordinari o alle corti marziali? E l'altro problema invece è pratico. È dove inviare coloro che non si intende processare, perché o non esistono prove contro di essi oppure perché le prove sono state ottenute attraverso la tortura. Quindi sono problemi seri e perciò mi sembra molto saggia la decisione di Obama di prendersi un anno di tempo. Molti dicono che questi prigionieri non possono essere processati nei normali tribunali americani perché costituiscono una nuova categoria di prigionieri, i cosiddetti nemici combattenti. Ma questa è la nuova categoria assurda inventata dall'amministrazione Bush, i nemici in armi. Cosa significa? Il diritto umanitario dei conflitti armati non prevede questa terza categoria, prevede soltanto il fatto di essere un civile o un militare. Molti osservatori però sono convinti che la prima e più grande emergenza che dovrà affrontare Obama è quella in campo economico. La crisi in America dilaga, la disoccupazione purtroppo viaggia spedita verso il 9%. Questo è il commento del direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli. L'unica a non aver festeggiato l'elezione di Barack Obama è stata Wall Street, che ieri ha perso il 5,3%. Alcuni titoli bancari hanno registrato pesanti cadute come State Street, considerata fino a qualche giorno fa sicura, che ha lasciato sul terreno il 60%. Bank of America e Citigroup tra il 20 e il 30%. L'ingresso dello Stato negli istituti di credito sembra non essere più una garanzia per gli investitori che si tengono alla larga dalla finanza. Più di 800 miliardi di dollari complessivi di interventi, anche se disordinati, appaiono persino inefficaci. Obama non baderà a spese, non guarderà al deficit, che ormai è superiore all'8% del prodotto lordo, altro che Maastricht, e nemmeno al debito pubblico, che potrebbe raddoppiare avvicinandosi addirittura a livelli italiani. La differenza con gli altri paesi è che una grande potenza può permetterselo, anzi deve permetterselo. Gli americani da anni vivono al di sopra delle proprie possibilità e noi dobbiamo sperare che continuino a farlo, e anche tanto. Mercoledì. Ancora una volta ci troviamo a parlare del caso ormai senza fine di Eluana Englaro. La nuova scossa alla vicenda parte martedì dal Piemonte, direttamente dalla voce e dalle intenzioni della governatrice Mercedes Bresso. Da Torino il servizio di Marco Ferrando. Da parte nostra non ci offriamo, ma se la famiglia Englaro dovesse chiedercelo esplicitamente saremmo pronti ad accogliere Luana in uno dei nostri ospedali pubblici. Queste le parole della Presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso, a Bruxelles, a margine di una conferenza stampa alla Commissione Europea. La Bresso, interpellata sulla questione, di fatto ha ripetuto quanto già dichiarato qualche mese fa, ovvero la disponibilità del Piemonte ad accogliere Luana. Candidate di fatto restano comunque le sole strutture pubbliche, visto che, come ha ricordato la Bresso, le cliniche private sono sotto scacco da parte del Ministero. In ogni caso, la Presidente ha puntualizzato che da parte della Regione non c'è alcuna intenzione di fare pressioni sulla famiglia Englaro, alla quale spetta la decisione. Proprio la famiglia Englaro ha accolto con favore le dichiarazioni della Bresso. Non posso che ringraziare la Presidente e rivolgerle tutto il mio apprezzamento. Dalle sue parole limpide e precise mi rendo conto che ha colto perfettamente la natura del nostro dramma, ha detto il padre di Eluana, Beppino Englaro. Abbiamo appena parlato e appena risentito le intenzioni di Mercedes Bresso. Ecco allora la sua voce al microfono di Paola Cavadi. Credo che prima di tutto esistano i doveri e quindi il rispetto della legge, e d'altra parte che le istituzioni abbiano anche le strutture sanitarie, in questo caso, abbiano anche il dovere di essere attenti agli aspetti umani di vicende di questo genere. Diversi esponenti del centrodestra hanno detto che c'è stata una gara tra i presidenti di diverse regioni per uccidere Eluana nella propria regione. Lei come risponde? E sembra veramente un modo assurdo di porre il problema. Intanto non c'è stata nessuna gara, c'è stata da parte di presidenti non solo di centrosinistra. Ricordo che il primo a esprimere una disponibilità è stato il presidente del Friuli, poi la struttura contattata ha rifiutato, ma il presidente ha mantenuto la propria posizione. La vicenda di Luana è sempre stata al centro di dure e spesso inopportune polemiche. L'ultima giunge giovedì, assieme a nuovi sviluppi, peraltro, del caso. Tutto questo nel servizio di Raffaella Calandra. L'ultimo nome spunta nel bel mezzo della bagarre e per la famiglia Englaro è ambasciatore di nuove speranze. La Cuiette di Udine potrebbe essere disponibile ad accogliere Luana. Raccogliendo una sollecitazione del sindaco, la clinica a breve scioglierà le riserve, così come tra 3-4 giorni potrà essere aggiunto un altro tassello in questa ormai decennale battaglia giudiziaria. Il TAR della Lombardia, infatti, dopo l'udienza di ieri, deciderà se annullare o meno il provvedimento con cui la regione aveva proibito agli istituti di cura l'interruzione dell'alimentazione ad Eluana, e questo ancor prima che fosse emessa la sentenza definitiva che dà invece al padre questa facoltà. Così la famiglia Englaro torna ad aspettare e ad ascoltare le polemiche, l'ultima tra il presidente del Piemonte, Mercedes Bresso, che dai microfoni di Radio 24 risponde al cardinal Poletto, che aveva invocato l'obiezione di coscienza. Noi non viviamo in una repubblica di Ayatollah, nelle quali il diritto religioso fa premio sul diritto civile. È dovere del servizio sanitario idratare una persona, controbatte il ministro Sacconi. L'ottavo giorno. Giovedì. Nella calda, caldissima settimana politica italiana, che però, dobbiamo dirlo, contrasta molto con il tono invece epico, solenne, persino retorico di quello che accade in America, giovedì si intrecciano alcuni passaggi fondamentali. Cominciamo dal modello contrattuale, perché dopo una lunghissima trattativa estenuante tra governo e parti sociali si arriva ad un'intesa, anche se non tutti sono d'accordo e approvano. Da Roma, Andrea Viali. Arriva, ma senza la firma della CGIL, a Palazzo Chigi l'accordo quadro fra governo e parti sociali sul nuovo modello contrattuale, un modello che riguarderà sia il settore pubblico sia quello privato e che prevede un peso maggiore per la contrattazione di secondo livello. Fra le novità, la durata triennale dei nuovi contratti, tanto per la parte normativa quanto per quella economica, e la scomparsa dell'inflazione programmata, che sarà sostituita da un nuovo indice. Vanno così in pensione gli accordi del 93, è un risultato storico, dice il ministro del welfare Sacconi. Per la prima volta si abbandona del tutto l'approccio conflittuale che ha caratterizzato largamente il nostro modello di relazioni industriali e si afferma un modello di tipo cooperativo. Il numero uno della CGIL, Epifani, attacca invece il governo e parla di accordo che non garantisce i redditi dei lavoratori. Il governo ha forzato, perché questa è la verità, in direzione di un accordo che sapeva non avrebbe avuto il consenso della CGIL. Spiace che la CGIL non abbia firmato, invece il commento del presidente di Confindustria, Marcegaglia. Abbiamo lavorato molto per cercare di avere un accordo con tutte le sigle sindacali e anche con la CGIL, però alla fine siamo anche convinti che in questi momenti serve coraggio, bisogna andare avanti, bisogna fare quelle grandi riforme che al Paese servono. Visto che stiamo parlando di modelli contrattuali e di mondo del lavoro, non possiamo dimenticare quello che ieri è successo a Pietro Ichino, celebre giuslavorista che oggi è in Parlamento, che è stato definito massacratore di operai dagli imputati del processo milanese alle Nuove Brigate Rosse. Ichino era in aula come testimone. Torniamo però adesso alla politica di Roma, perché sempre giovedì arriva il primo voto al disegno di legge sul federalismo fiscale. Al Senato si contano 156 voti a favore, 6 contrari e 108 astensioni. Elisabetta Fiorito. Il federalismo fiscale sembra aprire l'era del dialogo. Il disegno di legge passa al Senato con l'astensione del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori. Voto contrario solo dell'UDC. Soddisfatto il premier Silvio Berlusconi, che garantisce sui costi del provvedimento. Non deve pesare il federalismo fiscale, anzi deve portare a un risparmio della spesa pubblica. Il premier è disponibile al dialogo con il PD per qualsiasi riforma, ma intanto non manca una stoccata al partito di Veltroni, colpevole secondo Berlusconi di voler rimettere l'ICI. Esulta la Lega e il leader del Carroccio Umberto Bossi ringrazia invece l'opposizione. Senza la sinistra eravamo ancora in commissione. Per Roberto Calderoli il dialogo può funzionare anche in futuro. Una valutazione assolutamente positiva di un passaggio che porta all'avvio del percorso del federalismo fiscale, l'avvio di un percorso e di un metodo che credo possa essere seguito nella fase delle riforme costituzionali e delle altre riforme. Ma adesso bisognerà vedere cosa succederà alla Camera, perché il PD chiede chiarezza sui conti. Il discorso sul federalismo fiscale non è certo finito, anzi è soltanto all'inizio. Però in attesa di capire fino in fondo i costi di questo federalismo, che per qualcuno potrebbero addirittura aumentare anziché diminuire, rimane il dato politico dell'astensione del Partito Democratico. Tanto che ieri il Riformista ha titolato in prima pagina «Bossi seduce il PD» e parla di due costole della sinistra, rispolverando così una vecchia definizione molto amata di D'Alema, che così definiva il carroccio costola della sinistra una decina di anni fa, ricorderete. Ora facciamo invece un passo indietro a mercoledì, perché sulla commissione di vigilanza RAI, una storia che si trascina tristemente da mesi, si arriva ad un epilogo inevitabile. Sentiamo Paola Cavadi. Sciolta la commissione di vigilanza della RAI, dopo il parere positivo delle giunte per il regolamento di Camera e Senato, i presidenti Fini e Schifani hanno inviato le lettere di revoca a tutti i componenti della commissione, compreso il presidente Riccardo Villari. Sembra dunque superata un'impasse che durava da oltre due mesi. I presidenti delle Camere hanno preso atto dell'impossibilità della commissione di svolgere le sue funzioni dopo le dimissioni di 37 dei suoi 40 membri e il fallimento dei tentativi di raggiungere una soluzione politica. Schifani e Fini procederanno adesso alla nomina dei nuovi membri su indicazione dei gruppi parlamentari. Ma Villari, eletto coi voti della maggioranza e contrario a ogni ipotesi di dimissioni, non sembra intenzionato a cedere. Poco dopo la pronuncia delle giunte per il regolamento, infatti, il senatore ha convocato per venerdì la commissione di vigilanza. Villari non ha escluso un ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione, mentre è certo di impugnare la decisione Marco Beltrandi, membro della commissione che da giorni occupa la sede della vigilanza RAI a Roma. Perché la ritengo illegale e la ritengo soprattutto un gravissimo precedente per la vita parlamentare. A volte le tinte di questa storia della commissione di vigilanza RAI sono davvero grottesche, siamo ai livelli di una sceneggiata. Comunque, insomma, la pensiate, ieri la commissione si è effettivamente riunita, come anticipato da Paola Cavadi nel suo servizio, c'erano Villari e soltanto altri due membri, e la commissione ha deliberato, vi leggo testualmente, di sollevare il conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato e della Camera alla Corte Costituzionale. Veniamo invece a quello che è successo ieri, perché mentre il ministro Gelmini ha deciso di comunicare via YouTube le materie della seconda prova degli esami di maturità e anche il Papa ieri ha debuttato su YouTube, naturalmente il parallelo si ferma qui, al Consiglio dei Ministri si è discusso, tra le altre cose, anche di giustizia. Sentiamo a caldo, in diretta nel GR delle 13 di ieri, Vincenzo Miglietta. A Palazzo Chigi è stato messo a punto un piano carceri, Franco Ionta ne sarà il neo commissario straordinario, obiettivo del governo costruire nuove strutture per decongestionare l'attuale situazione, ma sentiamo il ministro della giustizia Alfano. Noi siamo convinti che abbiamo messo in atto un piano straordinario che forse per la prima volta potrà dotare il nostro paese di infrastrutture moderne. Ricordo solamente in conclusione che le nostre carceri sono per lo più state realizzate tra il 1400 e il 1800. Alfano ha poi aggiunto che per la riforma della giustizia, a partire dalle intercettazioni, vi sarà un nuovo appuntamento di sintesi con i capigruppo della maggioranza. Altro capitolo, l'immigrazione clandestina. Le decisioni del governo riguardano l'isola di Lampedusa, da sempre al centro delle rotte dei migranti. Da questa mattina, ha annunciato il ministro dell'Interno Maroni, è attivo un centro di identificazione ed espulsione accanto a quello già esistente di prima accoglienza. Entro febbraio, ha aggiunto il responsabile del Viminale, sarà concluso il piano rimpatri. Un bilancio poi da Maroni, dal 1 gennaio, ha detto: abbiamo rimpatriato direttamente da Lampedusa 150 clandestini. Il ministro ha inoltre garantito ai cittadini di Lampedusa che ci sarà una risposta alle loro richieste. Venerdì. Da Roma arriva una notizia da brividi, un caso di violenza carnale nella periferia della capitale. Tra l'altro questa notizia segue di pochissime ore un altro caso analogo. Sentiamo allora i dettagli con Cristina Carpinelli. Erano in macchina, appartati in una zona tranquilla di Guidonia, lui 24 anni, lei 21. Cinque uomini li hanno aggrediti con una ferocia animalesca. Lei violentata, lui picchiato e chiuso nel bagagliaio. I carabinieri di Tivoli stanno indagando, per ora non si sa nulla della nazionalità degli aggressori. La violenza è avvenuta attorno all'1 di notte. La ragazza si trova in ospedale. Si tratta del secondo caso di stupro in poche ore. Ieri sera erano le 22, una donna di 41 anni tornava a casa in autobus a Prima Valle, periferia di Roma. È scesa e ha percorso a piedi pochi metri per arrivare a casa. È stata seguita da due uomini, probabilmente stranieri, che l'hanno aggredita e violentata. Storie che fanno partire la polemica politica. A lanciare le prime critiche, il ministro ombra del PD ai beni culturali Cerami, che dice: le promesse messe di sicurezza sbandierate durante la campagna elettorale sono finite in soffitta. Replica immediatamente il sindaco di Roma Alemanno e dice che il 29 gennaio ci sarà un consiglio comunale straordinario sulla sicurezza delle donne in cui verrà presentato un nuovo pacchetto di misure. Intanto però in periferia si sente odore di rabbia e giustizia fai da te. La tensione già cominciata con lo stupro e l'omicidio di Giovanna Reggiani il 30 ottobre 2007 torna a farsi sentire. Gli abitanti della periferia di Primavalle hanno detto di essere pronti ad organizzarsi da soli se lo Stato e le forze dell'ordine non li aiuteranno. A poche ore dallo stupro, il sindaco di Guidonia, Filippo Lippiello, si dimette, anche se ci tiene a precisare che le dimissioni non hanno nulla a che vedere con lo stupro appunto che è avvenuto. Intanto, mentre confessa uno dei ragazzi accusati dello stupro di Capodanno durante una festa alla Fiera di Roma, a Primavalle proseguono le indagini sulla violenza di mercoledì sera. Si cercano in particolare due uomini dell'est dalla carnagione molto scura, forse dei Rom. Fatti di cronaca come questi di cui vi stiamo parlando hanno sempre inevitabili code polemiche in campo politico. Maroni, il ministro dell'interno, è nell'occhio del ciclone, dice di voler mantenere comunque i soldati nelle città. Maroni che in questa settimana tra l'altro è stato protagonista della discussa norma che vieta le manifestazioni religiose nelle piazze o davanti a luoghi di culto e che invece in queste ore deve gestire le tensioni della popolazione di Lampedusa per il nuovo centro di prima accoglienza voluto dal ministro e di cui abbiamo parlato anche pochi minuti fa. Ci manca solo l'ottava notizia di questa settimana che ci riporta piacevolmente in America, nulla a che vedere questa volta con Obama e il suo giuramento, ma con le nomination agli Oscar annunciate giovedì. Sentiamo Paolo Panceri. My name is Benjamin Button and I was born under unusual circumstances. Era un passaggio del curioso caso di Benjamin Button di David Fincher, che ha ricevuto 13 nomination all'Oscar come miglior film. Suo diretto avversario è The Millionaire di Danny Boyle, che ne ha avute 10. Come miglior attore segnaliamo il testa a testa fra Sean Penn, Brad Pitt e Mickey Rourke. Invece la cinquina per miglior attrice vede Meryl Streep battere il record assoluto di nomination con la 15ª. Avrà a che fare con Kate Winslet e Angelina Jolie. Da segnalare anche la nomination postuma per Heath Ledger, morto un anno fa come attore non protagonista. Fra i registi sono in corsa Danny Boyle, Ron Howard e Gus Van Sant. A bocca asciutta l'Italia, che non ha nomination in alcuna categoria. Per Maurizio Porro, critico del Corriere della Sera, quest'anno le scelte dell'Academy premiano un tipo di cinema più impegnato rispetto alle passate edizioni. Devo dire che rispetto al solito discorso, gli Oscar, festaioli, gli hollywoodiani di una volta, in cui si prendevano molto sotto gambe e si consideravano commerciali, gli Oscar di quest'anno, come anche altri, saranno sicuramente dedicati a un cinema impegnato, a un cinema diverso, a un cinema fatto molto all'europea. Abbiamo finito anche per oggi con l'ottavo giorno. Ringrazio Valerio Rocchetti in regia. Vi ricordo la mail a cui potete scriverci: ottavogiorno@radio24.it. L'appuntamento è a sabato prossimo alle 10 o alle 23.